Salve video ascoltatori, siamo qui per una video intervista all'esordiente gaetano Alessio Pinto. Io sono un grande amico di Gaetano e lui sta alla prima opera, si è cimentato in un libro che si chiama Sui Sassi, ma lascio a lui la parola per presentarlo. Bene, buonasera, saluto innanzitutto i video ascoltatori e mi corre l'obbligo di ringraziare te Amedeo perché mi hai dato questa opportunità, questa possibilità appunto di farmi conoscere e dire qualche parola su questo libro, che come tu appunto hai detto si tratta di un'opera di esordio e si tratta di un'opera prima. Il titolo insomma credo che lasci anche abbastanza spazio all'immaginazione. Sui sassi, i sassi possono essere di diversa natura, ognuno poi probabilmente lo interpreta come vuole. Nel mio caso, in maniera abbastanza prosaica, sono i tassi, sono le tante difficoltà, le piccole e grandi difficoltà che incontriamo nel nostro cammino. E se non mi sbaglio, alla quarta di copertina si accenna proprio ai sassi e la poesia corrispondente è la numero 5. Magari vogliamo iniziare con una lettura di questa poesia. Pagina 13. Sì, ti ringrazio. Io ho a caso qui per caso un libricino, una copia del libro stesso e mi avvio alla lettura della lirica numero 5. Che appunto non, le liriche non sono titolate, ma queste titoleremo insomma provvisoriamente proprio sui sassi. Quando con sgomento ho avvertito per la prima volta lo stillicidio di sassi e pietre aguzze che si conficcavano come aghi nella mia carne, ho pensato di arrendermi. Invece, sorprendendo me stesso, ho azzardato il primo passo. Da quell'istante, giorno dopo giorno, fitta dopo fitta, inaspettatamente, ho imparato a convivere con il dolore. Non sono un fachiro, né cammino sui carboni ardenti, ma non ho più paura, adesso che per la seconda volta, alla mia maniera, ho imparato a camminare, perché ora cammino sui passi. Sì, ma sono molto belle queste figure del sasso, della durezza, no? Che io nemmeno a farla apposta leggendo un'altra poesia, perché tu nella prefazione invidi il lettore a girovagare all'interno del libro, che non c'è un vero e proprio ordine. E allora io, seguendo il tuo consiglio, ho letto un'altra poesia, però ho avuto proprio questa sensazione, proprio della lama tagliente delle parole, perché poi la poesia è ritmo, è suggestione, ma soprattutto parole. Queste parole mi sono proprio sembrate dei sassi, quindi complimenti proprio per il titolo, che è l'unico titolo, che poi ogni poesia non ha un titolo, no? Che cosa dici? No, non hanno titolo perché insomma, come ti avevo anticipato anche tra sede, avevo voluto consegnare questo libro interamente ai lettori, volevo che il libro fosse fruibile soprattutto nella libertà più completa, più autonoma, e che addirittura ogni persona che si accostasse a quest'opera potesse leggerla, interpretarla e reinterpretarla eventualmente. Per cui volutamente non ci sono titoli, perché i titoli avrebbero Italia, ma devo fortemente indirizzare l'attenzione, l'emozione, l'emotività del lettore verso una sorta di canale, di imbuto, nel quale non volevo che si addentrasse, volevo che il lettore potesse spaziare, potesse sentire sua la lirica. E anche in questo senso va interpretato il consiglio di non seguire l'ordine numerico, cronologico delle pagine, ma di aprire il libro alla rinfusa e leggere secondando appunto il proprio gusto, le proprie aspettative. Infatti io questa impressione ho avuto, non essendoci titoli, c'è solo l'indice, avendo letto la prefazione, visto un po' l'indice, poi mi sono avventurato all'interno è un po' anche timoroso, perché le poesie possono essere delle spade, possono prenderti all'improvviso. E infatti la prima proprio che mi è capitato di leggere, la numero 50, riguarda proprio il cimitero, il tema forte dell'aldilà, dove tu usi proprio che all'improvviso un'ombra, una sagoma stagliarsi di fronte. Questa parte mi ha proprio colpito, cioè lo stagliarsi dell'ignoto, del mistero. E a volte ci prende, soprattutto poi davanti a un cimitero. Allora lì sono stato preso da tanti pensieri, no? Soprattutto poi come si fa a non pensare al fine vita, ma al dopo la vita. Tu sai che le nostre certezze spesso sono contestualizzate, sono costruite in maniera tale che possano essere assicurate anche dal contesto che ci è intorno, dai periodi della nostra vita, anche dai momenti di serenità o meno. E per cui io mi sono trovato a mezzanotte a lambire un cimitero o un sepolcreto, come mi piace denominarlo, in maniera più poetica, e devo dirti che, insomma, quando sei da solo a mezzanotte nei paraggi di un cimitero, un po' si acquisisce. Certamente le emozioni arrivano senza filtro e ogni piccolo fremito nell'aria ti fa sussultare, provare per credere. E tu consigli poi la virtù cristiana della prudenza davanti a questo mistero di un'ombra che ti segue, che si staglia davanti, che è l'ignoto. Un po' come direbbe Heidegger, noi siamo gettati in questo mondo, noi siamo finiti, l'unica incertezza è la finitezza, e lui diceva si vive verso la morte, l'unica certezza, finitezza, e che questa finitezza appunto finisce. Invece in altre poesie, poi magari approfondiremo un'altra volta, lui ha anche un messaggio di speranza, di certezza. In questa bellezza tu vedi, non vedi il fato, no? Nella 31esima parli molto di bellezza, anche in questo caso, dove un bel respiro con i polmoni, dici no, il caso non può aver generato tutta questa bellezza. Sì, magari, insomma, noi sappiamo che secondando le proprie convinzioni esistono diverse posizioni sulla soglia, sull'orizzonte, sulla, vogliamo dire, Weltanschauung di ciascuno. E allora questo ovviamente fa sì che l'artista, quantomeno, come anche in altre sedi ho detto, possa almeno rasentare l'ambire l'infinito e l'irrefutabile, perché forse l'arte non passa al di là della soglia, però ci arriva veramente vicino. E se vuoi, insomma, possiamo anche dar luogo a un paio di letture, insomma. Ma io partirei proprio da quella del cimitero, che dai, secondo me è molto evocativa, se permetti, se mi consigli. Sì, sì, vai, pagina 42. Ti ringrazio. Io inizierei da quella a pagina 61. Va bene, va bene. Penso, ecco, diamo proprio il bello della diretta. Si parla appunto di questa esperienza ai limiti del reale. Qualche tempo fa, a notte fonda, ho veduto lungo la strada del Camposanto e di campagna una sagoma stagliarmisi di fronte di soppiatto. Sobbalzando ho fatto un passo indietro, per istinto. Tirando un sospiro di sollievo, ho capito che si trattava della mia ombra, riflessa sul muro scalcinato del cimitero dalla luce tremula dell'unico lampione circostante. Ho allungato tuttavia il passo, per prudenza. Come dicevi, anche se io capisco, insomma, che si tratta della mia ombra, ma ripeto, l'istinto è stato quello di sopravanzare, è stato quello di lasciarmi quest'ombra alle spalle. Queste parole sono importanti. Notte fonda, poi sobbalzo, questo stagliarsi che dal nulla, no? Il nulla poi è veramente nulla, c'è tutta una discussione sul nulla, e poi la prudenza alla fine, che è la virtù cristiana, che davanti all'ignoto, davanti alle grandi difficoltà, non bisogna slanciarsi, ma essere prudenti, con fare poi certo e allontanarsi da... No, ma mi ha colpito molto come prima poesia, quindi devo dire mi sono stato proprio colpito come un sasso che ti colpisce. E poi leggendo anche la prima mi sono reso conto che un libro di poesia non è come un romanzo, non è come un film che tu c'hai l'inizio, continua la storia, finisce, stai bello tranquillo. No, la poesia è uno scontro, è una lotta, è con se stessi, con le proprie idee, con la propria storia, con tutto. Quindi devo dire, non posso leggerlo. Io ne ho lette altre così per fare proprio un po' un minimo di questa intervista, però lo devo ancora gustare per bene. Raccontaci un po' come ha avuto origine questo libro. Sì, tu mi insegni, no? Mi dai il là per dire che la poesia deve inquietare, e quindi questa mia esperienza ha avuto inizio con l'inquietudine mia personale. Mi sono inquietato e sono stato quasi preso, sono stato quasi, come tu a volte hai detto, per il passato posseduto da questo spirito artistico. Fortunatamente, insomma, si trattava di una possessione benigna in questo caso, che ha fatto sì che mentre mi trovassi in treno di ritorno da una breve vacanza, da solo in un compartimento, proprio sul mio lo smartphone ho iniziato a tamburellare un pochino con le dita, senza rendermi conto precisamente di questa operazione, di quello che stavo facendo, per cui inizio a scrivere e inizio a dirlo vero, come direbbe il sommo, in prosa, e poi man mano dalla prosa in automatico l'esperienza viene trasmutata in rima, Se ho ben capito, tu non hai premeditato, cioè non volevi scrivere all'improvviso, sei stato posseduto, diciamo così, da questo demone, da questo spirito, non so, dal mistero della poesia, e non hai potuto non scrivere sul cellulare, così? Sì, no, non ho potuto non scrivere perché era troppo liberatorio, era troppo bello farlo in quel momento. Cioè sei stato costretto, un po' come una volta i profeti che cercavano di scappare, così poi alla fine Dio li costringeva a scrivere, loro non volevano, ma loro hanno dovuto scrivere, sennò non potevano andare avanti. Penso, non è proprio così, però per far capire, cioè non è che tu sei messo adesso mo faccio una poesia, no. No, non sapevo. Non sapevo nulla di quello che mi stava accadendo dentro, intorno, ero completamente inconsapevole, per cui in quel momento io sono soltanto stato uno strumento di un flusso interiore che partiva da lontano evidentemente, perché poi questo flusso è continuato per tutta l'estate, poi sicuramente nei prossimi collegamenti insomma daremo maggiori dettagli, ma se tu vorrai potremmo chiudere questo con la lettura della poesia che fa Pandan, no? Quella che tu mi avevi detto, la numero 31 che fa Pandan con il cimitero, parlavi del fato che forse non esiste. Potremmo chiudere, se tu volessi, con la lettura di quella poesia. Insomma. Vai. Come al mattino, dopo l'oblio della notte, esco per via. E alto nel cielo il sole m'accarezza il viso, inspirando l'aria fresca, pieni polmoni, me astruso opinare di tanta bellezza, qual frutto del ghiribizzo del fato. Quindi istintivamente viene di pensare che la bellezza non può essere frutto del caso. Cioè, non c'è niente altro da dire, non si può discutere. La poesia è abbastanza icastica, no? Nel senso che anche i commenti sono superflui, come dici tu, è bella gustare, no? La poesia nel climax della poesia stessa, e guardando il cielo, l'aria e tutto, e poi di colpo ti rendi conto che le probabilità fisico e parlo con te che sei un fisico, e matematiche sono veramente diciamo infinitesimali, no? Vabbè, insomma, io mi sono cercato di documentarmi un po', ho visto su Wikipedia, che non è proprio, diciamo, una cosa certa, però comunque una come prima informazione può passare, e c'è scritto che nel mondo ogni anno ci sono 4.000 nuove poesie. Cioè, questo non è... sarebbero qua più di 10.000 al giorno. Cioè, ogni giorno l'animo umano produce 10.000 poesie. Eppure si pensa il contrario, si pensa a scrivere i film, a fare YouTube, i video come stiamo facendo adesso, e invece la voglia, cioè questo demone che prende, coinvolge. E diciamo, chiudiamo anche con un'altra riflessione di Heidegger, che io leggevo il resoconto del suo allievo Gadamer, e a un certo punto Heidegger, dopo aver studiato la metafisica, i greci, Aristotele, Platone e suo maestro Husserl, a un certo punto lascia tutto e si mette a chiosare le poesie di Hölderlin. È stato sconvolgente, cioè Gadamer, cioè, era incredibile, no? Non volevano crederci, ma lui pubblicamente leggeva poesie e le spiegava, proprio perché, e qui sarebbe un po' lungo, però per capire che dopo che Platone ha trionfato, ormai è tutto platonismo, questo computer è quella realtà che Platone diceva è quella vera, mentre la realtà in cui viviamo è una copia della vera realtà, dell'ideale, perché è tutte leggi matematiche, fisiche, la voce arriva a te e la tua voce arriva a me proprio attraverso quello che diceva Platone, no? Della matematica che sta al di sotto della realtà apparente. Quindi è tutto platonismo, Platone sta vincendo, eppure Heidegger va contro questo modo di pensare, di calcolare, perché poi la matematica ti uccide, non ti dà il senso, perché qual è il senso di un calcolo? Non c'è. È tutto preciso, è tutto meccanizzato, tutto incastrato, e invece Heidegger dice no, c'è dell'altro. E la poesia per lui era l'ultimo messaggio dell'uomo tecnologico, che se continua così va verso il nichilismo, dove noi stiamo andando. E allora ben venga un libro sulla poesia, e come hanno detto i due colleghi, che cos'è la poesia? I miei colleghi soprattutto si sono ritrovati molto, ma soprattutto hanno fatto un'affermazione molto bella. Hanno detto che chi scrive poesia di questi tempi è certamente una rivoluzione. Sì. Qui hanno raccontato la mia opera, insomma, un'attività in qualche modo controcorrente, qualcosa che va a smuovere lo status quo, insomma, negli anni. Per cui tutto si è incominciato, no, a smuovere veramente anche nel mio istituto scolastico, eccetera. Ma poi dicevo che se lo dice Heidegger possiamo credergli, no? Diciamo, Heidegger è l'ultimo dei grandi filosofi. Da Platone, gli albori della filosofia, fino ad Heidegger, uno degli ultimi, ma veramente ultimo, nel senso che dice ci siamo sbagliati. 2000 anni di pensiero, sì, porta cose giuste, non è che lui va contro la tecnologia, non è che dice no, la matematica è sbagliata, è giusto, ma forse ne parleremo un'altra volta, cioè cercare una limitazione nel principio di causa fa grande il pensiero, no? Perché il principio di causa ormai ci tormenta, ci oscilla, che poi si è trasformato nell'amministrazione totale. Tu devi fare questo perché per quest'altro devi beggiare, tutto calcolato, tutto preciso. Poi ne parleremo nelle prossime puntate, se avremo modo di continuare questa azione rivoluzionaria, dare vita alla poesia. Volentieri, ci aggiorniamo tranquillamente con i video ascoltatori. Allora salutiamo e alla prossima. Io saluto tutti, grazie.